assolutamente, è una campagna elettorale che è divertentissima in questo momento, è piena di spunti, poi come dire, da tutti i lati, le regionali, le nazionali, le monti, che quattro liste, sette liste, era partito da una lista, no? E oggi siamo già su 14 liste e mezzo, qualche cosa. E poi la cosa bella è che loro stanno raccogliendo le firme senza avere ancora i candidati, loro in realtà le firme le devono raccogliere sotto il nome dei candidati, ma questo, come dire, è divertente perché lo fanno sempre tutti, cioè tutti imbrogliano e tutti barano, e l'imbroglio comincia dalla raccolta, dal gioco di poker, no? Dice Cesa sì, Cesa no. La cosa divertente di Cesa è che è l'unico politico che è stato latitante, no? Da un lato quello si trova Monti a destra e Ingroia a sinistra, che gli mangiano voti da tutti e due i lati, no? E quello là sta in centro così, messo là un poco. Il guaio di Bersani è che da un punto di vista, cioè, è un disastro. Se Bersani corre con la, vedi, Bersani vorrebbe correre con la stessa platea elettorale delle primarie, quella là fatta da funzionari del partito e da amici, da simpatizzanti, ecco qua. Quando si trova fuori dagli iscritti del partito, quelli che vogliono loro, fuori, là già comincia un poco ad avere delle difficoltà, no?